La prima notizia è che si torna in presenza, sì, dopo diciamo 2 anni in cui ci siamo inventati dei modi per stare presenti anche senza esserlo veramente, quest'anno insomma torniamo ai fasti che tutti ricordiamo, insomma quelli pre-pandemia. Ci sono diverse tappe di avvicinamento, diciamo così, al 25 aprile a Pratello Resiste e ovviamente sono molto importanti le iniziative di autofinanziamento. Ce n'è una, tra l'altro, che è fra pochi giorni, quindi ti chiedo di raccontarla. Sì, allora a Pasquetta, come da tradizione anche questa pre, diciamo, pandemica, organizzeremo un pranzo di autofinanziamento al VAG. È una cosa a cui teniamo particolarmente, un po' perché è un'occasione per portare un po' di Pratello in trasferta, perché insomma i pratelliani sono spesso molto stanziali, e poi perché comunque insomma c'è un rapporto di amicizia e di collaborazione con i compagni di VAG su varie iniziative, su vari temi, e quindi insomma ci fa piacere ritrovarci tutti insieme. Stiamo raccogliendo le adesioni sulla nostra pagina Facebook, è possibile prenotarsi, ci sono ancora pochissimi posti, quindi frettatevi, anche perché si autofinanzia e si mangia gran bene, perché è tutto preparato dalla brigata della Rita, della drogheria 53 di Via Pietralata, che insomma sappiamo tutti che è una cuoca super. Ogni anno Pratello Resiste è contraddistinto anche da una maglietta che sintetizza un po' appunto la celebrazione di quell'anno. Vuoi raccontarci appunto la maglietta di quest'anno? Sì, allora la maglietta di quest'anno, diciamo che anche qui insomma, abbiamo fatto il botto, insomma siamo voluti tornare alla grande. La maglietta di quest'anno l'ha disegnata Erika Alcane, che è uno dei tanti artisti che, vabbè, insomma non c'è bisogno di presentazioni, però è uno dei tanti artisti che hanno anche collaborato con il suo contributo al progetto del disegno delle serrande di Via del Pratello, che è seguito, organizzato da Federico, un compagno del Pratello, e quindi insomma proprio tramite questo contatto gli è stato chiesto di disegnarci la maglietta di quest'anno, e lui insomma ci ha regalato una sua opera meravigliosa. Dico solo che abbiamo fatto una prevendita la settimana scorsa al Centro Sociale della Pace in Via del Pratello e ne abbiamo già vendute metà, e adesso stiamo cercando di correre per stamparne ancora, però insomma anche lì, seguendoci sui canali social, su Facebook e su Instagram, pubblicheremo anche altri momenti di vendita pre-25, oltre ovviamente ai banchetti che organizzeremo il giorno della festa. So che per radio è difficile, però ce la vuoi descrivere la maglietta? Ma allora la maglietta è chiaramente a tema animalesco, insomma, adesso io poi non sono un bravissimo critico d'arte, quindi probabilmente non rendo molto bene l'idea. Comunque è il disegno di un topo che è sdraiato sopra una trappola per topi, e si sta, diciamo, riposando tranquillamente, della serie proprio me ne frego della trappola e di quelli che cercano di prendermi e li frego. Insomma, io la leggo così, poi probabilmente se sente Erika il cane ha tutto un altro senso, però insomma. Beh, insomma, ognuno gli dà l'interpretazione che Sì, vuole. comunque è molto molto bella, il disegno è bellissimo, sono molto belle anche quelle per bambini, e insomma penso che tutti quelli che poi conoscono l'arte di Erika il cane la riconoscerebbero immediatamente, anche senza bisogno di dirlo che il disegno è suo. Allora, appunto, per questi preparativi, per tenere d'occhio tutto quanto, appunto, l'hai già detto prima, ma ti chiedo di ripetere i contatti. Sì, noi abbiamo una pagina Facebook e da poco anche una pagina Instagram. Siamo un po' dei boomer noi di Pratello Resiste, quindi non siamo bravissimi con i social, però sicuramente su Facebook trovate tutto quanto. Stiamo per uscire con il programma musicale e a breve anche con il programma poi della festa.